24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:20 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, in diretta su Radio 24 fino alle 9 con 24 mattino. Siamo anche in diretta su Facebook, potete seguirci nella nostra pagina 24 mattino. Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Torniamo a parlare di Libia, che è ancora uno dei temi che è sulle prime pagine dei giornali, e di intervento militare che si profila, secondo qualcuno, sempre più vicino. Vi chiediamo nel nostro sondaggio: secondo voi è una scelta giusta quella dell'intervento militare per deporre Gheddafi, oppure c'è il rischio, come ha detto Maroni, di una terza guerra mondiale? Votate su Radio24.it il vostro parere, ne parleremo poi alle 8:30. Ed ora da cosa iniziamo? Come al solito dai giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 9 marzo, per il secondo giorno consecutivo ancora Libia e giustizia, questi sono i due temi sui giornali. Bloccati 45 miliardi libici, così titola Il Sole 24 Ore. Unicredit pronta a congelare i diritti di voto di Tripoli nel consiglio di amministrazione. I ribelli a Gheddafi ai 72 ore, questo per il Corriere. Mentre sulla giustizia, per l'appunto, apre Repubblica: giustizia, ecco la riforma. Vicende invece italiane e un po' tra il gossip e quant'altro, per il giornale come titolo di apertura: le email segrete dei magistrati, sistemiamo Zietto Silvio e i suoi fan. Questo è il titolo del giornale, che poi vedremo. Insomma, questi due grandi temi che trovate sui giornali. Io dalle consuete due segnalazioni voglio partire. La prima la troviamo in prima pagina del Secolo XIX, sotto il titoletto Italia cialtrona, ogni tanto lo mette il quotidiano di Genova. Quei garanti pubblici garantiti dallo stipendio. A pagina 11 è una intera pagina dedicata agli alti costi, alle poche funzioni per chi deve tutelare i cittadini. A cominciare dal difensore civico della regione, ma poi ogni comune o quasi ogni comune ne ha uno. Poi c'è il Corecom, il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E poi ne è nato un altro: dall'ufficio del difensore civico è stato infatti scorporato, tra le polemiche, un nuovo organismo, vale a dire il garante dell'infanzia. È stato dato tra l'altro a un ex candidato al PDL alle europee, Susi De Martini, stipendio 1700 euro al mese. E tra l'altro in prima pagina c'è il commento di Marco Menduni: un garante gratis per eliminare le poltrone inutili. Susi De Martini in pista per occupare la nuova poltrona, diritto alle sue garanzie, uno stipendio da 1700 euro al mese che, giura lei, devolverà in beneficenza. Intenzione nobilissima. Però la De Martino, ex passionaria del PDL, poi tradita alle europee da Berlusconi, riconvertita alle truppe di Burlando, alle scorse regionali, dunque passata anche dal PDL al PD, è anche un medico e rivendica il suo buon diritto a occupare quel posto. Lo garantisce, ha tutte le carte in regola. Ma il Secolo XIX, parlando un po' di sprechi di soldi pubblici, dice: a questo punto in regione manca un'unica figura, il garante, che individua i garanti inutili, quelli da cancellare, e che lo faccia gratis. Questo in prima pagina del Secolo XIX. La seconda segnalazione invece è dal Corriere della Sera, perché parla uno dei protagonisti di una vicenda che a Milano è stata definita, ma non solo a Milano, in tutta Italia, la Bat Casa. Parla Gabriele Moratti, il figlio del sindaco Letizia Moratti, accusato di avere costruito una Bat Casa ispirata a Batman, accusato di aver fatto un presunto abuso edilizio, un cambio di destinazione poi sanato dal piano regolatore. La botola non è casa Batman, accuse a mia madre, lei non c'entra. Parla, intervistato da Elisabetta Soglio al Corriere della Sera: ma quale Batman? Intanto io ho paura dell'aereo, e se poi proprio devo scegliermi un eroe volante, a me da bambino piaceva Super Pippo. Inizia così l'intervista di Gabriele Moratti, che dice: è solo la parola dell'architetto, una persona che ha credine nei miei confronti, racconta falsità. Nessuna botola nella casa? È una scala che conduce a un seminterrato, risponde Gabriele Moratti. E la piscina invece, quelli l'hanno vista i tecnici del comune. il poligono di tiro, noi volevamo realizzare uno spazio espositivo, non un ufficio, organizzato su diversi livelli. Noi chi? Siamo due, insieme a due amici, abbiamo fondato una società, la Redemption Choppers, e abbiamo ampliato per fare un laboratorio. È lì che avete chiesto il cambio di destinazione da industriale a commerciale? Sì, e abbiamo pagato più di 100.000 euro di oneri al comune. Ora stiamo disegnando tutte le linee del campionario. Io non ho mai vissuto lì, sono residente e abito in Galleria dei Cristoforis. Non ho mai dato feste in quello spazio, sono una persona timida, le feste le evito, figuriamoci se le organizzo. Beh, però insomma ci fu una festa in discoteca nella quale lei fece anche una lite col pilota di Formula 1 Irvine. Quella è un'altra menzogna. Irvine mi ha aggredito, mi ha spaccato un bicchiere di vetro sulla faccia. Guardi qui la cicatrice, e mostra un segno sul sopracciglio sinistro. Da parte mia è benvenuto l'intervento della magistratura, che farà chiarezza su una situazione che mi vede come parte lesa, quella di Irvine. Tornando invece alla casa, ne ho discusso con i miei genitori, ne ho parlato con mio padre en passant, ma ero tranquillo perché i miei legali e i miei tecnici sapevano che stavamo rispettando le regole. Senta, però lei il 4 marzo, appena il caso esploso, ha presentato un'altra DIA di proseguimento dei lavori. I tecnici la stavano preparando da tempo, è stata una coincidenza, risponde Gabriele Moratti, anche perché una cosa così non la scrivi in 10 ore. Più che pentito sono rammaricato, mi spiace che la rabbia di una persona che voleva approfittarsi di questa situazione stia coinvolgendo mia mamma, che proprio non c'entra nulla. Insomma, così parla Gabriele Moratti, altro che casa di Batman. A me piace e preferivo al limite Super Pippo. La pubblicità. In primo piano. È il tema anche del nostro sondaggio, la Libia, l'attacco militare che si profila, la possibilità di questo attacco militare, l'intervento militare in Libia. Vi chiediamo, è una scelta giusta secondo voi? Ne parleremo alle 8.30 e certo ancora molti giornali aprono sulla situazione in Libia. La vicenda è quella dell'ultimatum, per esempio, che sarebbe stato dato a Gheddafi da parte dei ribelli. Bisogna usare i condizionali perché, come scrive Roberto Mongiorni, inviato del Sole 24 Ore da Bengasi, a pagina 5, capire a chi si deve credere quando parlano i 31 membri del Comitato Nazionale come chiedere sul fronte di guerra chi comanda, un'operazione spesso senza frutti. Per esempio questo ultimatum c'è, non c'è, Gheddafi risponde, ma quale ultimatum? Io non lascerò mai la Libia, lo fa in una serie di interviste, è tornato a parlare Gheddafi, ogni giorno fa qualche intervista. Ma quale ultimatum? Non me ne andrò via, non tratto, perché con Al-Qaeda non si tratta. Continua insomma questa visione di Gheddafi, secondo il quale c'è Al-Qaeda con le sue pastiglie allucinogene date ai giovani dietro questa rivolta. Sta di fatto che, per quel che riguarda la missione militare possibile, l'Italia sarebbe pronta, racconta la stampa, pagina 4, a presentare una proposta l'11 a Bruxelles, quando ci sarà il Consiglio europeo straordinario, vale a dire quella di una missione navale di pattugliamento delle coste di Tripoli e Bengasi per far rispettare le sanzioni, l'embargo soprattutto di armi, il monitoraggio dei flussi migratori. Insomma, l'Italia ieri con Maroni ha detto: attenzione, c'è il rischio di una terza guerra mondiale. Oggi il capo antimafia, o meglio il capo della commissione antimafia, Pisanu, intervistato dal Corriere della Sera, da Monica Guerzoni, a pagina 9 dice: l'intervento militare, ormai non ci sono alternative, anche imporre la no-fly zone è comunque un intervento di carattere militare. Comunque, di fronte a Maroni, che dice l'intervento militare sarebbe un grave errore, dice Pisanu: l'errore più grave sarebbe lasciare andare a una sanguinosa deriva la guerra civile. Sta di fatto che sul fronte libico, il Sole 24 Ore, questa è anche l'apertura, bloccati 45 miliardi libici, l'Europa congela tutti i beni libici. Questo è l'aspetto economico che riguarda anche l'Italia, dove, lo ricordiamo anche oggi, sono varie partecipazioni, prima su tutta il 7,58% di Unicredit. E l'accordo tra i 27 paesi dell'Unione è quello da venerdì di far scattare lo stop per tutti i beni. C'è anche il 2,01% di Finmeccanica, l'1% di Eni, il 7,5% della Juventus, ma non solo. Ecco, questi sono i beni libici che dovrebbero essere bloccati a partire da venerdì, dice il Sole 24 Ore, in base a un accordo di tutti i 27 paesi dell'Unione. E poi c'è il fronte, sapete, che colpisce e riguarda sempre l'Italia, tutto quello che succede in Libia. Che ha detto Gheddafi in una di queste interviste, e che viene ripreso con tanto di interrogazioni, interpellanze parlamentari? Un tempo la Lega mi chiese aiuto e armi per la secessione. Questo in sostanza ha detto. E vabbè, già qui si potrebbe ascrivere, insomma, in una di quelle dichiarazioni di Gheddafi, che in questo momento, insomma, non è che viene preso molto sul serio. Solo che la risposta di Bossi poi ha fatto deflagrare anche la polemica, perché ha detto: ma che bisogno, non abbiamo mica bisogno degli uomini e delle armi della Libia. Le armi le abbiamo già qua e le facciamo in Lombardia, e ne abbiamo già tante. Quindi, insomma, a Gheddafi che dice: la Lega mi chiese aiuto, Bossi, ma no, abbiamo gli uomini e anche le armi. Armi da Tripoli alla Lega, dice Bossi, ne abbiamo già tante in Lombardia. Questo, così titola il Corriere della Sera. Il PD chiede che riferisca in Parlamento la russa. Siamo un po' una polemichetta all'italiana, Bossi è così, questa delle armi, tra l'altro in Lombardia, non è la prima volta che la dice. C'è la questione invece in Italia della giustizia. È il giorno in cui sulla giustizia ci sarà la presentazione al Quirinale della riforma al Presidente della Repubblica, perché riforma che domani verrà presentata invece in Consiglio dei Ministri. Che cosa si fa registrare? Beh, intanto ci sono da registrare due cose. La prima è che Berlusconi, nonostante l'operazione, pare che oggi alle 10.30 vedrà Napolitano per un'altra vicenda. C'è una riunione importante sulla Libia. E dunque alle 10.30 Berlusconi viene segnalato a Roma, di ritorno dall'operazione. Ma poi, e questo sia il Sole 24 Ore che Repubblica lo fanno notare, sulla giustizia c'è l'irritazione del Colle. Così titola il Sole a pagina 18. Donatella Stasio: la riforma epocale della giustizia viene data da giorni per bella pronta, ma solo oggi verrà presentata dal ministro Alfano al Quirinale. Tanto che l'irritazione del Quirinale si sarebbe concretizzata in che cosa? Nel fatto che non potrebbe non essere il capo dello Stato a ricevere Alfano, ma il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra. Questo lo scrive anche Repubblica con Liana Milella, pagina 11. L'irritazione del Colle sarebbe arrivata a tal punto che a ricevere il guardasigilli non sarebbe il presidente in persona, ma il segretario generale. Cioè, come dire, lo faccio ricevere, non lo ricevo io capo dello Stato, ma lo faccio ricevere da uno dei miei più stretti collaboratori. Però sulla riforma della giustizia si concentrano sia Repubblica che con Liana Milella. Pubblica che cosa? I contenuti di questa riforma. Quali sono? Quelli di cui abbiamo discusso ieri: carriere separate tra PM e giudici, che non apparterranno più allo stesso ordine, due CSM, uno per i giudici, uno per i PM. Un'alta corte, non sarà più il CSM a processare disciplinariamente i magistrati, ma un'alta corte con membri indicati dal Colle, scelti dalle Camere, eletti dalle toghe. L'azione penale non sarà più obbligatoria, ma stabilita dalla legge. E poi, insomma, altre novità. Secondo Repubblica, questo è un tentativo per delegittimare i PM, i magistrati, insomma un attacco all'indipendenza della magistratura. E i magistrati che fanno? Beh, abbiamo parlato della risposta epocale, così è il titolo del Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto a pagina 4. Sarà una risposta epocale, i magistrati pronti alla protesta contro la riforma. Mentre il Giornale che fa va più nel cuore della vicenda, pubblicando a pagina 2-3 con un editoriale del direttore Alessandro Sallusti in prima pagina, dicendo: viene da rabbrividire a leggerle. Pubblica le mail, dunque corrispondenza privata, che i magistrati si sono scambiati in questi giorni per dire: prepariamoci a mobilitarci. Eccolo qui, lo scambio di mail. Viene definita questa della riforma nelle mail una sfida all'OK Corral. Il Premier annuncia un Consiglio dei Ministri straordinario per varare una riforma epocale, le toghe vanno in fibrillazione. Ecco qui lo scambio di mail. Vabbè, c'è chi condivide banalmente, insomma, la preoccupazione, ma poi per esempio viene pubblicata questa mail di Armando Spataro, procuratore a Milano: se quanto preannunciato troverà forma scritta, niente, ma proprio niente, potrà evitare una risposta epocale della magistratura. Oppure dobbiamo scioperare tutti uniti, qui non è solo in gioco la nostra autonomia, la nostra indipendenza, è in gioco lo Stato democratico. Questa è firmata Marzia Minutillo Turtur. Oppure Felice Pizzi, altro magistrato, scrive invece così: ma il problema di fondo sono i cittadini. Quando lo zietto Berlusconi avrà tolto il disturbo, rimarranno comunque i suoi elettori e non solo loro. I politici passano, la società civile purtroppo resta e resta tale quale senza cambiare. Tanto che Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, si concentra proprio su questa mail dicendo: fa veramente effetto vedere un giudice chiamare il premier lo zietto Berlusconi con tono dispregiativo, porsi il problema che una volta fatto fuori lui andrà affrontato il problema dei suoi elettori, cioè di 12 milioni di italiani che il vertice della magistratura evidentemente considera degli imbecilli e forse anche dei pericolosi criminali. E poi Sallusti scrive nel suo editoriale: sarebbe orribile ma interessante perquisire case e uffici di quei magistrati così dichiaratamente schierati contro Berlusconi e contro chiunque graviti nell'area del centrodestra. Magari si scoprirebbe che non sono poi così indipendenti come sostengono. Insomma, farà discutere la pubblicazione delle mail private, scambi di mail private tra questi magistrati, ora pubblicate a pagina 2 o 3 del giornale. Mentre l'altro tema in discussione è quello del rimpasto, è un po' diventato un giallo, quello del rimpasto di governo che non avverrà, pare, prima di 2 settimane, anche se la stampa con Ugo Magri a pagina 8 pone un problema da cui ripartiamo dopo il traffico. In primo piano. Il problema riguardante il rimpasto di governo, a pagina 8 della stampa a firma Ugo Magri, è questo: quante nuove poltrone vorrebbe fare il Cavaliere? In base alla legge Bassanini, che fissa un limite di poltrone di governo, potrebbe fare 11 nomine tra ministri, viceministri e sottosegretari, ma per soddisfare le richieste a Berlusconi ne servirebbero 20 o 21, dunque occorre cambiare la legge. Una firmetta di Napolitano sotto un apposito decreto e opla, ecco risolto il problema. Oppure no, in quanto il Presidente non ravvede l'urgenza che la Costituzione richiede per questo decreto legge. Allora ci sarà questo scontro tra questo ulteriore scontro, comunque problema tra Berlusconi e Napolitano? A giudicare da Libero, il problema Salvatore Dama lo pone così: secondo i rumors del Parlamento, Denis Verdini avrebbe in mano un'altra lista di 5 nuovi deputati in arrivo, conquistati dalla minoranza alla maggioranza. Uno di questi è proveniente dall'Italia dei Valori, insomma, quindi un altro che dall'Italia dei Valori, dopo Scilipoti, andrebbe a rinforzare la maggioranza. Non c'è il nome, E questo è un bene, scrive Libero, per quel che riguarda i numeri della maggioranza, ma dall'altra parte è anche un male. Perché? Perché a ogni nuovo deputato corrisponde un desiderio. Ed ecco qui che anche Libero dice: il problema è che i posti da assegnare sono meno degli aspiranti. Insomma, 11 è il massimo secondo la legge Bassanini, per non sforare la legge Bassanini, a meno che Napolitano non conceda una firma per cambiare la legge. Lo farà? Questo è il problema, secondo i quotidiani, del rimpasto di governo. C'è anche abbastanza delle inchieste, eccetera. Per quel che riguarda le inchieste, per chi vuole sapere quanto spende Berlusconi, oggi lo scoprirà. Pagina 13 del Corriere, eccolo qui. Siccome è stato sequestrato nella vicenda per cui è a processo il Presidente del Consiglio, il conto numero 129 al Monte dei Paschi di Siena, materialmente gestito da Ragione Spinelli, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella del Corriere ci fanno sapere su questo conto quanti soldi Berlusconi ha dato e a chi. 562.000 euro a 14 giovani e famose ragazze. 100.000 euro alla ex del Grande Fratello Angela Sozio, consistenti giroconto a cadenza quindicinale a favore dei figli Marina e Pier Silvio, 675.000 euro per arredare il castello di Paraggi, 900.000 euro alla Flat Point per la manutenzione elettrica e acqua della residenza d'Antigua, accidenti, per elettricità e acqua 900.000 euro ad Antigua, 441.000 euro all'avvocato parlamentare Ghedini per il suo lavoro, 441.000 euro. Mezzo milione di euro agli altri legali, 24.960 euro a un costituzionalista, Nicolò Zanon, per un parere pro veritate, 20.000 euro alla mamma di Noemi Letizia, 100.000 euro al pianista DJ delle feste, Danilo Mariani, 120.000 euro al negozio di cravatte foulard Marinella, 65.000 euro al gioielliere Eleuteri, 300.000 euro a un fornitore di tessuti, 650.000 euro in antiquari e gallerie d'arte. Anche se poi potete scorrere l'elenco di tutte le beneficiate, tutte le ragazze: Angela Sozio, appunto, 100.000 euro, Maria Alonso Adelina Scalona 50.000, Valentina Costanzo 40.000 euro, Maria Grazia Veroni 36.000 euro, è tutto specificato. Ma la più fortunata, secondo me, in coda all'articolo è un regalo di 40.000 euro per le nozze di una segretaria. Però Peter Bescapè sorride, hai visto, a fare la... Ah, Peter Bescapè pensa al DJ, il DJ delle feste, giustamente, 100.000 euro. Ma anche, insomma, una delle segretarie di Berlusconi, che si è sposata, regalo di nozze, 40.000 euro. Beh, insomma, un bel regalo di nozze. Altri numeri un po' più brutti, decisamente più brutti, li dà invece il Sole 24 Ore per quel che riguarda l'impatto della crisi sull'economia, pagina 7. 30 fallimenti al giorno, questo è il numero certificato brutale, il record negativo dei fallimenti nel 2010 per quel che riguarda le imprese. La statistica dei fallimenti aziendali, un segnatempo implacabile, racconta Attilio Geroni, si abbatte sul morale delle imprese come l'onda lunga di una crisi che sembra passata quando si guardano invece gli ordini del fatturato. L'anno scorso in Italia sono state aperte 11.000 procedure di insolvenza, circa una trentina al giorno per l'appunto, una crescita del 20% rispetto al 2009, il valore più alto da quando è stata riformata la normativa sulla crisi d'impresa. Chi sono più a pagare? Beh, il concetto è questo, è molto semplice: più un'azienda è piccola e più soffre. E il manifatturiero è quello che ha pagato il tributo più alto, con 5.000 default tra il 2009 e il 2010. C'è la mappa, triste mappa, devo dire, dei fallimenti su 10.000 imprese operative e le variazioni del 2009, dove le aziende falliscono di più è la Lombardia, con un più 21,7%. E la regione più colpita, ma anche poi il Veneto con un più 34%, lo trovate sul Sole 24 Ore. Che cosa c'è ancora? Beh, da segnalare una cosa veloce, visto che siamo in chiusura, dal Fatto Quotidiano, perché io prendo in mano la Gazzetta dello Sport. Purtroppo la Roma non ce l'ha fatta, ha perso in Champions League, ha perso 3-0, ha perso anche la testa con un rigore sbagliato, un'espulsione, una gomitata di De Rossi. Ci sarà ora la prova TV, è stato anche rescisso il contratto con Adriano, che è tornato in Brasile. Davvero pessimi momenti per la Roma. Stasera c'è una partita, c'è la partita Tottenham-Milan, ma non dico nulla. E mi sa che non dirò nulla neanche domani. In ogni caso, la partita di calcio più interessante, la segnalo dal Fatto Quotidiano, è la partita liberata, il racconto, articolo di Giancarlo Padovan, perché oggi c'è una partita che magari non sarà molto importante, non prenderà certo le prime pagine della Gazzetta dello Sport di domani. Si gioca nei territori occupati, nei territori palestinesi, vicino a Ramallah, che cosa? Per la prima volta nella storia la nazionale della Palestina affronterà la Thailandia in una gara per la qualificazione alle Olimpiadi di Londra l'anno prossimo. E la partita di ritorno, all'andata, la Thailandia vinse 1-0. Qual è la novità? Che per la prima volta, appunto, la nazionale palestinese, invece di giocare, che ne so, in Qatar oppure, diciamo, all'estero, può giocare nei territori vicino a Ramallah. Oggi allo stadio Faisal al-Husseini di Al-Ram, a nord-est di Gerusalemme. è uno storico match di cui racconta Giancarlo Padovan sul Fatto nell'articolo La partita liberata, lo trovate a pagina 15. Ci fermiamo qui, il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare il prefetto di Palermo, che è anche commissario straordinario per l'emergenza immigrati, Giuseppe Caruso. Prefetto, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ieri è stato a Lampedusa a vedere com'è la situazione, ha parlato di previsioni confermate, quelle del ministro Maroni. È davvero un rischio di esodo biblico davanti? Ma a giudicare dagli arrivi, quando il mare è calmo, direi proprio di sì. Questa è la situazione. Le previsioni parlano di possibile addirittura 50.000 migranti in arrivo. Si può fare una cifra, si può azzardare oppure no? No, penso che sia poco prudente fare previsioni numeriche. Il numero sarà sicuramente rilevante comunque. La situazione a Lampedusa com'è? Regge anche dal punto di vista, immagino, dell'ordine pubblico? A Lampedusa la situazione regge molto bene, indipendentemente dal numero. In questo momento sono circa 1410, e la capienza ottimale è di 850 unità, però regge lo stesso. Per la tipologia degli ospiti, parliamo di persone giovani, tra i 20 e i 30-35 anni, soprattutto in buona salute. Io ho parlato anche con i medici, lì nello studio medico del centro ieri, per esempio, c'erano 3-4 di questi ospiti, ma accusavano semplicemente problemi alla faringe o alla laringe, niente di serio. Senta, lei ha anche annunciato che da oggi credo sarà operativo a Mineo, in provincia di Catania, un centro che accoglierà quante persone? Il centro di Mineo può accogliere molte persone. Il ministro degli interni ha disposto ragionevolmente che lì saranno ospitati solamente gli asilanti, che in questo momento sono spalmati nei vari CARA del territorio nazionale, che sono complessivamente 2.300, però riteniamo di far affluire all'interno di questo villaggio circa 2.000 di questi, perché riteniamo che 300 vengono considerati a tutti gli effetti svantaggiati, intesi come anziani o comunque non facilmente trasportabili per motivi vari, e quindi riteniamo di collocarvi circa 2.000 persone, tutti asilanti. Lei sa però, prefetto, che per esempio il sindaco di Mineo, comunque molte autorità sono critiche. Ecco, lei come giudica, da parte anche di, non so, in questo caso sindaco di Mineo, ma anche altri esponenti delle istituzioni, delle critiche, non una totale accoglienza così in maniera normale, sono critiche legittime di chi si vede arrivare delle persone? Ma sulla legittimità ho qualche perplessità. Io le dico molto francamente che forse ci sono problemi a carattere ideologico, non tanto di razionalità nel criticare questo atteggiamento. Cioè, ma da parte di chi? Ma l'ha fatto lei il nome. Il sindaco di Mineo. Anche il vice sindaco. Qualche critica pare che sia venuto anche dal presidente della regione. Io le dico solamente questo. Il ministro ha sempre e continuamente coinvolto e ha cercato la condivisione assoluta di tutte le componenti. Abbiamo fatto parecchi incontri, sia in prefettura a Catania, sia al Viminale, coinvolgendo anche tutte le realtà, ripeto, direttamente o indirettamente interessate, proprio perché è intendimento del ministro di volere la condivisione di tutti. Certo, detto. Qualcuno che non è d'accordo lo si trova sempre. Sì. Però lei ha detto opposizioni ideologiche, pare che il presidente della regione Lombardo abbia detto: ho una proprietà da quelle parti e non so se dovrò, a Mineo, non so se dovrò andare tranquillo in campagna o dovrò portare il mitra. facendo un'esagerazione. Ma io un'altra domanda, se lei mi consente. Passeremo un'altra domanda, va bene. E, senta, solo la Sicilia dovrà accollarsi, so che è una brutta parola, ma insomma le persone che arrivano, oppure c'è anche una polemica, altre regioni a dire vengano mandate anche al nord, vengono distribuite nelle varie regioni, insomma tutta l'Italia si accolli questa situazione. Glielo confermo. La critica secondo la quale è interessata solo la Sicilia è sbagliata. Come primo impatto abbiamo individuato questo villaggio per il quale stiamo procedendo, ma interessato è tutto il territorio nazionale, tant'è che in più occasioni e anche oggi pomeriggio, purtroppo io non potrò essere a Roma, anche oggi pomeriggio il ministro incontrerà i prefetti dei capoluoghi di regione, già incontrati in altre occasioni, ai quali è stato dato il mandato esplorativo proprio di individuare altri siti dove poter, in caso di emergenza, ospitare questi cittadini. Aspetta, quindi tutte le regioni devono contribuire. Io lo confermo. Nel concludere e nel ringraziarla, prefetto, insomma, la situazione di ordine pubblico è tutto tranquillo per il momento, il sistema regge, cioè voglio dire, siamo pronti ad affrontare tutta questa ondata che potrebbe arrivare? Fino adesso ha retto. Io sono convinto che anche a fronte di altre migliaia di persone che dovessero arrivare, siamo in grado di fronteggiare la situazione. Poi, a seconda della consistenza numerica, ci attrezzeremo. Certo. La ringrazio, prefetto Caruso, per essere stato con noi. Prefetto di Palermo e commissario straordinario per l'emergenza immigrati. Ci fermiamo per la pubblicità e poi continuiamo a parlare di questa emergenza internazionale, spostandoci però sul fronte anche militare. Qualcuno dice la Libia, ci vuole l'intervento militare di qualche tipo, no fly zone, oppure addirittura intervento militare, dare armi agli insorti, è un'opzione che secondo voi è l'opzione giusta? Di questo parliamo nel nostro sondaggio tra poco, votate su radio24.it se volete chiamarci, 800 24 00 24. 24 mattino. 8:33 minuti, parliamo dunque di Libia, di opzione militare, di possibile intervento di militare di qualche tipo, che non vuol dire solo lì andare con i carri armati, ma vuol dire anche per esempio la no-fly zone, vuol dire intervenire militarmente. È un'opzione che non ha escluso anche il presidente americano Obama, e la NATO non l'ha esclusa, e è un'opzione giusta, questo vi chiediamo nel sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Su Radio24.it votate, prevalgono per il momento i no con il 62%. Sta di fatto che, insomma, quando si parla di opzione militare o di guerra, immagino ci sia anche un po' di, come dire, di risposta emotiva. Ne vogliamo parlare con il sottosegretario degli esteri Alfredo Mantica, che ritroviamo con piacere. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno, buongiorno a voi. Così come voglio salutare il generale Fabio Mini. Buongiorno generale. Lo stiamo richiamando, è caduta la linea, ma lo recuperiamo. È stato comandante della missione in Kosovo, è stato comandante anche delle forze della NATO del Sud Atlantico. È con noi generale Mini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Voglio salutare anche dagli Stati Uniti, lo ringrazio. Insomma, il fuso orario questa volta c'è un po' agevole, visto che è sulla costa, la costa californiana. Edward Lutwak, politologo, buongiorno Lutwak, anzi buonasera per lei. Buongiorno. Senta, sottosegretario Mantica, partirei con lei perché la stampa oggi dà una indiscrezione ed è questa, invece che opzione militare, che ricordiamo ieri il ministro Maroni ha definito un rischio di potenziale terza guerra mondiale, dunque andiamoci con i piedi di piombo, l'opzione dell'Italia e del ministro Frattini e il ministro degli esteri sarebbe quella di portare all'idea di una missione navale per controllare Tripoli, controllare che l'embargo vada bene, eccetera, e pare che venerdì ne parla l'Italia, porterà avanti questa idea. Ce lo può confermare? Ma guarda, questa è una delle idee sul tappeto, ce ne sono moltissime evidentemente, ma soprattutto attendiamo di sapere cosa accadrà all'ONU, perché qualunque operazione militare non può essere certo immaginata né bilaterale né da parte della sola Europa, peggio della NATO. Ci vuole assolutamente la copertura di una risoluzione dell'ONU. Quindi vediamo anche i limiti di questa operazione, perché tra l'altro per operazioni militari ci sono opzioni molto diverse fra di loro. Diciamo che si parla normalmente in no-fly zone, sì. L'Italia propone una specie di blocco navale, anche perché di no-fly zone si parla normalmente di una penetrazione all'interno del territorio libico di 100 chilometri, quindi comunque vogliamo spiegare che cos'è una no fly zone, perché magari non tutti lo sanno, cioè imporre un divieto di volare quando trovate il generale Migni è più bravo di me. Sì, sì, comunque si tratta di impedire il volo di tutti gli aerei, in questo caso libici. Gli obiettivi sarebbero sostanzialmente due dal punto di vista militare, cioè impedire che aerei possano arrivare in Libia portando mercenari, mezzi militari e quindi un blocco operativo, e di impedire che Gheddafi possa usare le sue truppe, i suoi aerei, i suoi elicotteri per bombardare la popolazione. Anche un altro effetto, lo ha detto il Consiglio transitorio ieri con i suoi rappresentanti al Parlamento europeo, quello di una presenza forte, diciamo così, della comunità internazionale sulla Libia come pressione politica, ma anche come aiuto indiretto ai ribelli che si sentirebbero in questo caso appoggiati da una presenza militare. A questo proposito, generale Mini, la no-fly zone eventuale decisa nel caso dall'ONU è già un intervento militare? E le chiedo, o nel caso ci vorrebbe un intervento militare anche ulteriore rispetto a questo? No, è una misura anche militare, nel senso che gli effetti politici ovviamente sono molto, molto importanti e molto pesanti, però per essere assicurata deve essere sopportata, sostenuta dall'ambito militare. Bisogna che ci sia qualcuno che controlli che veramente le rampe missili contraerei oppure gli aerei di Gheddafi non volino sopra la Libia. Quindi ci vuole una presenza militare forte, ed è una misura sia militare che politica veramente eccezionale. Ma bisognerebbe molte volte non ha avuto effetto. Sì, ma bisognerebbe intervenire militarmente con questa no fly zone oppure con qualcosa? Cioè, qualcuno dice anche no, armiamo i ribelli, cioè abbattiamolo questo Gheddafi. Guardi, sono tutte misure che sono tutte possibili, e secondo me in altri tempi, quando non c'erano queste titubanze o queste perplessità, il regime di Gheddafi sarebbe stato già abbattuto. Voglio dire, noi abbiamo fatto tranquillamente la Bosnia, il Kosovo, l'Iraq, l'Afghanistan, con e senza il sostegno delle Nazioni Unite, per cui e che perplessità ci sono? Con altre mentalità questa cosa sarebbe stata già risolta, ma quali, almeno nella fase di abbattimento. Ma a quali perplessità allude lei? Cioè di chi? Prego? A quali perplessità allude, generale? Le perplessità sono quelle che l'inerzia, si vede che c'è sbandamento nella comunità internazionale per capire che cosa bisogna fare, e questo mi sembra che sia legittimo proprio alla luce delle esperienze passate, però secondo me si stanno avendo delle perplessità in un caso e in un momento sbagliato, perché il regime di Gheddafi è palesemente contro il sì, forse le perplessità sono, come ci diceva il sottosegretario Mantica qualche giorno fa quando abbiamo parlato ancora dell'argomento, è dire uno va bene, abbattiamo Gheddafi e poi, cioè voglio dire, con chi abbiamo a che fare quando si parla di insorti, di ribelli, eccetera. Ma vorrei andare al di là dell'Atlantico, vorrei salutare appunto ancora Edward Luttwak e chiedere a Luttwak, perché tutti sono rimasti un po' stupiti, o non so, ci dia una lettura dall'America, dal presidente americano Obama, che non ha escluso proprio l'opzione militare. Allora, pare anche che il capo del Pentagono sia stato intercettato a una TV afghana con il generale Petraeus, ha fatto questa gaffe nella quale ha detto sì, stiamo preparando l'attacco. È così, Luttwak? Guarda, c'è un fatto tecnico e un fatto politico. Il fatto tecnico è che un divieto di volo, un no-fly zone, sopra un paese come la Libia, richiede un attacco abbastanza pesante contro la controaerea, contro i missili e i cannoni controaerei di Gheddafi, perché Gheddafi ha comprato molta roba, incluso molti missili antiaerei. Una parte di questi missili sono ancora in suo controllo, una parte funziona, e quindi prima di poter pattugliare sopra Libia bisogna lanciare un bel po' di questi attacchi per la soppressione delle difese aeree nemiche. Quindi non è così semplice come fare una gita o una passeggiata. Questo è un attacco militare vero e proprio. E prima di poter pattugliare sopra uno spazio aereo per proibire l'uso di questo spazio aereo dal cattivo di turno, bisogna eliminare i suoi missili controaerei. Questo vuol dire una molteplicità di attacchi, perché forse non funzionano, ma non si sa se li vedi devi attaccarli, quindi una no-fly zone non è una cosa passiva, è una cosa molto attiva che richiede bombardamenti, richiede uccidere persone, è una cosa abbastanza vigorosa. Mm. Poi c'è il problema politico, cioè chiunque interviene in Libia, che non è un musulmano, qualsiasi potenza non musulmana, sarà accusato di farlo contro l'Islam da qualcuno da qualche parte o da molte parti. Così è successo in Afghanistan, così è successo in Iraq. E a proposito, l'ultimo attacco terrorista che gli americani hanno subito era l'aeroporto di Francoforte, sì, fatto da un giovanotto di Kosovo, paese musulmano che esiste a causa dell'intervento americano, che era benevole di intenzioni, ma loro non ci credono, perlomeno una parte non ci crede. Quindi c'è un problema politico e c'è un problema tecnico. Sì. D'altra parte l'Organizzazione dei Stati Islamici, 57 membri, con un gran numero di soldati, aeroplani, aerei, loro adesso sono in sessione apparentemente, o il comitato. Sì, per... E hanno chiesto questa, hanno chiesto la no-fly zone. Ecco, e mi sembra un'idea splendida che questa volta i soldi siano spesi dai musulmani, il sangue pure, per liberare gli altri musulmani, così perlomeno, perché chiunque lo farà sarà accusato di due cose: di averlo fatto solamente per il petrolio della Libia. Questo è interessante. E poi per un attacco contro l'Italia. Sottosegretario Mantica, la lettura è sempre molto pragmatica, qualcuno dice anche cinica, di Edward Luttwak, però è questa. D'altronde Gheddafi l'ha detto, Mantica, venite qui in Libia, arriva torna ai tempi del Barbarossa, avrete Al-Qaeda alle porte, cioè il rischio è questo, chiunque interviene in una nazione come la Libia va a toccare dei gangli delicati, cioè dal punto di vista dei rapporti con l'Islam, è una obiezione di cui tener conto? Beh, io credo che sia dal punto di vista politico la prima obiezione, non è un caso che noi attendiamo anche con molta curiosità politica, evidentemente, quello che avverrà l'11 di marzo, cioè venerdì, e il 12, l'11 si riunisce la Lega Araba, finora il suo segretario Amr Moussa ha detto, come ci ha precisato Luttwak, che il mondo arabo sunnita, tanto per essere chiari, visto che la Lega Araba raggruppa tutti gli stati sunniti, è favorevole alla no-fly zone. Questo però è solo la dichiarazione del segretario, vediamo se tutti gli stati della Lega Araba riuniti l'11 di marzo daranno la stessa valutazione, avremo l'appoggio. Il 12 si riunisce l'Unione Africana, di cui Gheddafi è stato anche presidente. Si dice anche da questo punto di vista che tutta l'Unione Africana è favorevole, ma già per esempio sappiamo che il Sudafrica ha espresso molte perplessità e all'interno dell'Unione Africana il Sudafrica è uno di quegli stati che conta. Sì. Questo perché evidentemente Luttwak fa riferimento all'OIC, cioè all'Organizzazione Internazionale dei Musulmani, poi c'è ancora il Consiglio Generale degli Stati del Golfo, cioè si aspetta anche di vedere se c'è questa disponibilità e partecipazione in qualche modo del mondo islamico insieme al mondo occidentale per un'operazione del che Luttwak ha tradotto così, insomma, per una volta sarebbe splendido siano loro a versare i soldi e anche il sangue che eventualmente potrebbe essere necessario per liberare la Libia, col punto di domanda. E poi ha introdotto la questione del petrolio, ma d'altronde Obama tre giorni fa l'ha detto, la Casa Bianca sta anche ipotizzando di toccare le riserve che vengono tenute di petrolio per le occasioni, perché non si sa dove andiamo a questo punto. E da qui voglio ripartire. Il petrolio, ci sono già le accuse, si interviene per il petrolio dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'opzione militare in Libia per il 62% dei nostri ascoltatori per il momento no, però Luttwak, io vorrei approfondire questo aspetto, cioè se Obama dice c'è la possibilità, o la Casa Bianca, c'è la possibilità, non escludiamo di intaccare le riserve petrolifere, allora un'accusa potrebbe essere, ma che si fa? Allora si va lì e lo si dica per difendere anche il petrolio. Ma guarda, c'è una polemica negli Stati Uniti, perché ci sono i soliti robusti umanitari, persone determinate di salvare tutti a spese degli Stati Uniti, che lo stanno premendo per intervenire. E McCain, il leader repubblicano, e altri stanno agitando per l'intervento, l'America deve intervenire, eccetera. Ora, in questi tempi, il risultato è di quello che è successo in Afghanistan, dove ogni settimana, ogni venerdì, i predicatori spiegano che gli americani sono lì per distruggere l'Islam, o l'Iraq, dove il governo iracheno dà i contratti del petrolio ai cinesi, alle imprese cinesi, per evitare l'accusa di essere manipolati dai Stati Uniti. Questi esempi non sono sufficienti. Apparentemente questi intervenzionisti hanno bisogno anche della Libia. Però per il momento c'è resistenza. Sì, c'è resistenza. E veramente penso che si deve imparare qualcosa da quello che è successo. Sai, il giovanotto che ha ucciso gli americani all'aeroporto di Francoforte è di Kosovo. Allora, Kosovo non è così arretrato come l'Iran. No, ma è interessante. Tra l'altro, comunque ci sono i predicatori in Kosovo che spiegano che, anche se è difficile spiegarlo, che l'intervento americano apparentemente benevole, apparentemente per liberare il Kosovo dai serbi, in realtà era eccetera eccetera eccetera. Questo tipo di cosa circola perfino in Italia. E dice questo crea poi questa, non so, noi abbiamo qua anche il generale Mini che di Balcani se ne intende, non so se il generale vuole commentare questa affermazione di Lutwak, e però le voglio chiedere anche la questione dell'inerzia a cui faceva riferimento lei prima, è che effettivamente chi sono questi ribelli, chi sono questi insorti, non si capisce neanche cosa dicono, c'è una trattativa con Gheddafi, uno lo dice, quello a fianco smentisce, cioè con chi sono i nostri amici tra virgolette che dovrebbero abbattere Gheddafi? Sì, no, sulla questione di Lutwak sono d'accordo, nel senso che bisogna imparare dalle esperienze passate, e ovviamente le esperienze passate non è che sono tutte positive, per cui questa inerzia è anche dovuta al fatto che non si vogliono ripetere gli errori del passato, e questo mi sembra molto molto encomiabile. Il fatto, secondo me, ma questa è una cosa personale, è che stiamo avendo questo tipo di perplessità con l'interlocutore che è più palesemente un violatore del diritto internazionale, della sicurezza internazionale, dell'economia, di tutto, e soprattutto è uno che sta massacrando i suoi stessi cittadini. Voglio dire, in altri tempi, come dicevo, non ci sarebbero stati proprio dubbi. Sì. Oggi va bene, bisogna trovare un nuovo metro, una nuova unità di misura per capire quando bisogna intervenire con la forza, con o senza il consenso delle Nazioni Unite. Però nel caso della Libia, secondo me, adesso stanno prevalendo molti, molti interessi di carattere privato e privatistico, non sono interessi nazionali, guardate quelli che... Per esempio? Per esempio, anche la questione del petrolio e del gas e delle installazioni estrattive è una questione che va soltanto a favore di pochi approfittatori e di pochi speculatori, non è che va a favore degli interessi nazionali. Però l'approvvigionamento energetico, so che è brutto dirlo, ma è un interesse in realtà di tutti. Guardate, se facciamo i conti veramente con i numeri, noi vediamo che la Libia, e soprattutto quando gli altri paesi arabi sono disposti a compensare il calo di produzione con il loro aumento di produzione, e oggi stamattina il petrolio cala invece di aumentare, ma se lei va a fare il rifornimento alla pompa di benzina si accorge che da ieri è aumentato di 4 centesimi. Vuol dire, tutte queste cose sono cose che sono banali probabilmente. No, ma sono anche concrete, però. Sono concrete. Vedere che c'è dietro una speculazione proprio su questi fatti, che è una cosa endemica, nel senso che è sempre successa, però dobbiamo anche vedere come superare questa cosa. La parte dell'inerzia, chi è che è l'interlocutore? Questo è il grande problema per l'intervento, non dico solo quello armato, ma anche quello politico, per vedere con chi stare. Attualmente, dico la verità, non abbiamo interlocutori, cioè la comunità internazionale non ha interlocutori validi e soprattutto non si sa bene quanto sia il supporto che questi no, infatti ribelli, questi insorti, ribelli, non si capisce, c'è un comitato, però anche come scrive oggi Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore, uno di questo comitato dice che c'è 72 ore di ultimatum alla Libia e quella a fianco dopo un'ora smentisce che ci sia qualsiasi tipo di trattativa. Allora la credibilità degli interlocutori, uno dice vabbè, abbattiamo Gheddafi. E poi Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Nulla, io vorrei intervenire riguardo alla possibilità dell'intervento militare di cui si parla. Piuttosto che spendere vite umane e ingenti somme di denaro per fare questi interventi militari, che come tutti abbiamo visto anche nelle altre zone limitrofe, e come insomma come è andata a finire, non è possibile pattugliare in maniera migliore l'area del Mediterraneo in modo tale da prevenire questi sbarchi, questa immigrazione? Ho capito, ma è possibile, sì Roberto, è una delle opzioni, ma cioè io le faccio una controdomanda, ma a lei interessa quello che sta succedendo in Libia? Cioè interessa se è vero quello che dicono, che Gheddafi sta bombardando la sua popolazione, i civili libici, oppure cioè noi ce ne stiamo, che dice, pattugliamo le coste, stiamo... controlliamo che non vengano da noi, insomma, poi quello che succede in Libia chi se ne frega. No. Proprio così come la sta dicendo lei, non la penso. È perché questo non è il punto. Non ho fatto, con quelle parole che ho detto, non ho fatto un ragionamento a largo spettro, quello sicuramente sì, ma sicuramente quella, diciamo, la mia cosa che ho detto sicuramente potrebbe essere una delle cose di un progetto più globale, più vasto. Sì, piuttosto che andare direttamente a fare un intervento militare mirato, e come sono andate a finire tutti gli altri, vediamo l'ex Jugoslavia, vediamo insomma l'Afghanistan attualmente, quante persone sono morte. Io non parlo soltanto dei militari italiani, ma di tutte le forze intervengono in questi interventi. No, lei dice è scettico visto anche il passato sulle operazioni militari. La ringrazio, con lei devo concludere, il tempo è scaduto. Ringrazio il sottosegretario Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri da San Francisco. Ringrazio anche Edward Lutwak e il generale Fabio Mini per essere stati con noi. Come detto, continuate a votare. 63% è salita di un punto percentuale gli sfavorevole intervento militare, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Do appuntamento a tutti con entusiasmo su Facebook, mi hanno accusato di dirlo con poco entusiasmo, ma no, sono contentissimo, abbiamo la pagina su Facebook, ma che scherzate, siamo quasi già in 2000, andate lì 24 mattino su Facebook, continua il dibattito, rispondiamo ogni tanto sì, ogni tanto no. Senza astio, no? Come qualcuno mi ha accusato, non c'è mai astio qui. E che dire? Do la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina alle 7:20.